Io penso che i dazi siano nella loro natura una reazione nazionalista, troglodita ai problemi veri posti alla globalizzazione, sempre più finanziarizzata, ma dobbiamo occuparci dei potenziali effetti sulla nostra economia e sul lavoro. E gli effetti sono potenzialmente importanti, perché l'assessore Colla la settimana passata ci ha comunicato che alcuni studi che hanno delineato gli scenari danno un quadro negativo, un possibile impatto per la nostra regione, quindi per la nostra economia, per le nostre produzioni, per i posti di lavoro, per i salari, per la coesione sociale, stimabile tra 1 miliardo e 1,3 miliardi, ma ci sono scenari che danno possibili effetti ancora di maggiore negatività. Sono diversi i settori, diciamo, della nostra economia che verrebbero penalizzati, perché l'Emilia Romagna esporta molto. Le previsioni danno un impatto negativo. Tenga conto che noi esportiamo come regione circa 10 miliardi e mezzo verso gli Stati Uniti, è il nostro secondo, terzo mercato dopo la Germania, e i settori sui quali esportiamo di più sono la meccanica con circa 6 miliardi e mezzo, i medicinali e i preparati farmaceutici, l'agroalimentare e la filiera dell'abitare, quindi anche il ceramico, il distretto ceramico. Noi esportiamo per 10 miliardi e mezzo, importiamo per 1 miliardo, quindi abbiamo un saldo positivo di 9 miliardi con gli Stati Uniti. Questi settori sarebbero quelli maggiormente penalizzati. C'è grande preoccupazione, le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati, i lavoratori naturalmente sono in allarme, perché gli effetti, ripeto, potrebbero essere molto molto consistenti. Ma in un mercato globale le istituzioni locali hanno qualche leva? Non direi, io credo che siamo dinanzi a un bivio, questo paese deve decidere la dico in maniera, come dire, diretta, se stare con Trump e quindi con questo tipo di politiche protezioniste, sovraniste, nazionaliste, o se invece fare la scelta di stare con l'Europa, che io credo sia la vera unica via di salvezza che abbiamo. Non ci si salva da soli in questa vicenda, bisogna che la nostra regione, il nostro paese, dica in maniera chiara all'Unione Europea, che ha già annunciato peraltro delle misure, di stare da quella parte. Cioè, noi bisogna che facciamo comprendere agli Stati Uniti che intanto i dazi danneggiano tutti, però poi è anche vero che alcuni risultano più danneggiati di altri. Io personalmente penso che alla fine risulteranno danneggiati anche gli Stati Uniti, ma non c'è dubbio che alcune parti dell'Europa, come dice il governatore della Banca d'Italia Panetta, rischiano di pagare un prezzo più alto, e queste parti d'Europa sono la Germania e l'Italia. Quindi la destra, in particolare il governo e la Meloni, dicano in maniera chiara da quale parte stanno, se stanno con l'Europa o se stanno con Trump. Anche perché, insomma, sembra abbastanza chiaro l'intento di Trump proprio di colpire l'Europa, insomma, anche dalle parole che ha usato, ma anche per altre vicende come le trattative per la pace in Ucraina, insomma, sembra un attacco mirato. Trump ha detto in maniera chiara che l'Europa, per la sua visione del mondo, è un avversario, è nemica. Lo sappiamo, nel pensiero trumpiano c'è che l'Europa non deve svilupparsi nel senso dell'unione politica ed economica. Sappiamo che Trump preferisce trattare con i singoli paesi, preferisce dividere l'Europa sapendo di indebolire anche i singoli paesi. Ecco, nel nostro paese qualcuno coltiva l'idea che il rapporto diretto, amicale tra la nostra premier e Trump possa metterci a riparo dalla tassazione, dalla sovratassazione per i nostri prodotti. È un'illusione, è l'illusione che le culture sovraniste, nazionaliste, quelle delle piccole patrie alimentano, ma che non portano da nessuna parte, anche perché ricordo a tutti che l'Europa, pur tra mille difficoltà, tra mille conflitti di competenze tra nazioni e commissione, su un punto ha una regola, una legislazione abbastanza chiara. Il commercio è regolato dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo, non dai singoli stati. Quindi la via della soluzione individuale del nostro paese, e quindi anche della nostra regione, non è praticabile, non porterà a nulla. Ripeto, bisogna scegliere, e in questa scelta noi siamo perché si dia più forza all'Europa per contrastare in ogni modo le politiche scellerate nazionaliste di Trump.